Così mi disse il Signore: va, comprati una cintura di lino e mettila ai tuoi fianchi, ma non immergerla nell'acqua. Allora io comprai la cintura secondo l'ordine del Signore e la misi ai miei fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta nuovamente in questi termini: prendi la cintura che hai comprato, quella che è ai tuoi fianchi. Poi levati, va a Para e nascondila là, nelle fessure della roccia. Io andai e la nascosi in Para, come aveva ordinato il Signore. Or dopo molti giorni il Signore mi disse: levati, va a Para e prendi di là la cintura che io ti ordinai di nascondervi. Io andai e scavai e ripresi la cintura dal luogo dove l'avevo nascosta. Ma ecco, la cintura si era consumata, non era più buona a nulla. Allora la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: così dice il Signore, così io consumerò la grande superbia di Giuda e la superbia grande di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare la mia parola, che cammina nella durezza del suo cuore e va dietro altri dei per servirli e prostrarsi a loro, che divenga come questa cintura, buona più a nulla. Sì, come aderisce la cintura ai fianchi dell'uomo, così io avevo fatto aderire a me l'intera casa di Israele e l'intera casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fosse mio popolo, mia rinomanza, mia lode, mia gloria. Ma non hanno ascoltato. Tu dirai loro questa parola: così dice il Signore, Dio di Israele: ogni boccale si riempie di vino. Ma ti diranno: forse che non sappiamo che ogni boccale si riempie di vino? Dirai loro: così dice il Signore: eccomi, io riempirò di ubriachezza tutti gli abitanti di questo paese. I re che siedono al posto di Davide, sul suo trono, i sacerdoti, i profeti e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Io li frantumerò uno contro l'altro, cioè i padri e i figli insieme. Oracolo del Signore: non avrò pietà né compassione né misericordia per la loro distruzione. Ascoltate e porgete orecchio, non insuperbite, perché il Signore ha parlato. Date al Signore, Dio vostro, la gloria, prima che annotti, prima che inciampino i vostri piedi sui monti del crepuscolo. Voi confidate nella luce, ma egli la convertirà in oscurità mortale, la trasformerà in tenebra. Se però non l'ascolterete, segretamente piangerà l'anima mia a causa dell'orgoglio e lacrimerò disperatamente. Si consumerà il mio occhio per il lacrimare, perché verrà deportato il gregge del Signore. Di al re e alla regina madre: sedete più in basso, perché è discesa dalla vostra testa la corona della vostra gloria. Le città del sud sono bloccate senza accesso. Tutto intiero Giuda è deportato. È deportato completamente. Solleva i tuoi occhi e considera chi viene dal settentrione. Dov'è il gregge confidato a te? Le pecore della tua magnificenza? Cosa dirai quando li stabilirà come tuoi dominatori, tu che li avevi ammaestrati nei tuoi riguardi perché ti fossero amici? Forse che non ti assaliranno i dolori come donna in parto? E se dirai nel tuo cuore, perché mi accadono queste cose? Per la tua grande iniquità saranno scoperti i lembi tuoi, violentati i tuoi calcagni. Può un cuscita mutar la sua pelle o una tigre le sue striature? E allora voi potreste operare bene, abituati come siete al male? Perciò ti disperderò come stoppie al vento del deserto. Questa è la tua sorte, il salario della tua ribellione da parte mia, oracolo del Signore, perché mi hai dimenticato ed hai confidato nella menzogna. Anch'io solleverò i tuoi lembi fino al tuo volto, perché sia visibile la tua vergogna. Gli adulteri tuoi, i tuoi nitriti, la turpitudine della tua prostituzione sulle colline, nei campi. Ho visto le tue abominazioni. Guai a te, Gerusalemme, che non ti purifichi. Per quanto tempo ancora?